Station Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Hello, hello. Dieci minuti primi, benvenuti gentili ascoltatori e ascoltatrici su Radio Storia del Capo, questa è This Is Not An Exit e quello che avete appena ascoltato non è il solito gruppo grunge, anche se i tempi sono quelli, siamo nel 1992, lo sapete, ci piace riportarvi sempre tra inizio 80 e inizio 90 perché si stava meglio, c'è poco da fare. Che dica, che dice dottor Scarpa? Buonasera a tutte e a tutti. Sì, forse perché eravamo più giovani, quindi è facile, insomma, è facile dire che si stava meglio. Sicuramente. La memoria gioca brutti scherzi. Noi ricordiamo quei periodi come, insomma, un po' più spensierati. Va bene così. Ma si stava molto meglio. Sì. L'estate erano caldissime. L'aria era respirabile. I popoli erano governati da farabutti senza coscienza. E quindi? E la felicità era sempre a caro prezzo, come dire. Sì, sì, comunque... E Red Meat erano perfetti proprio su quest'ultimo tema. We'll be right back. Red Red Meat con noi a This Is Not An Exit questo giovedì sera 22 giugno 2017, ma per noi siamo nel giugno del 1992, quando questi Red Red Meat esordivano. Bei tempi, dicevamo prima, in questi anni 90, c'era un bel vento di novità, lo diciamo spesso, la sinistra italiana si ricompattava sotto l'Ulivo, la destra, come dire, si ricompattava invece sotto una nuova alleanza nazionale, l'Unione Europea reclutava nuovi membri, lo Stato di New York ripristinava la pena di morte, un sacco di gente moriva in Giappone a causa dei terremoti e un sacco di altra gente moriva in Jugoslavia, qua vicino, a causa della guerra. Poi qualcuno invece moriva sulle curve di stadi a Genova, fu quello gli anni, no? L'anno di Genova Milan fu quello l'anno. Beh, vabbè, comunque lasciamo, cioè il discorso è anche molto più indietro. Nel 94, vabbè, sì, il 95 gennaio morì Claudio Spagnolo a Genova, però ricordiamo anche quelli che succedevano, filippini, insomma, anche insomma, abbiamo un corollario abbastanza lungo, ma noi adesso parliamo di musica che forse di Red è Red meglio. Meat. Eh sì, Red Red Meat, appunto da Chicago, anche se firmavano per la Sub Pop, un'etichetta che aveva comunque i gruppi maggiori nella città di Seattle, però questi qua, i Red Red Meat, vengono appunto da Chicago, un po' più a destra di Seattle, stato del Michigan, se non sbaglio. E Red Red Meat che si rifanno un po' alle tradizioni. Questo disco è il primo, c'è qualcosa di forse di grunge, qualcosa, perché comunque il periodo era quello. Successivamente vediamo che il gruppo cambia e va più sulla tradizione, su un blues un po' più dilatato, più classico, e faremo ascoltare prossimamente i dischi degli album successivi, appunto. Yeah. Questi Red Red Meat erano un gruppo particolare, anche i miei amici quando ero ragazzetto li ascoltavo rimasero un po' fregati. Eh sì, perché nella profonda Emilia, da dove vengo, il blues, o come si dice, tra Emilia e l'US, insomma, il blues rock era sempre andato alla grande. Il grunge un po' meno. Poi però, fresco di patente, avevo la cassettina e un mio amico un po' più grande di me mi dice: ma bella sta roba, mi fa la cassetta, e io gliela copiai ovviamente. Non è che avesse aspettative che gli impazzisse, eppure poi mi rivide e mi disse: oh, questa è musica da scazzo, però non sono male. We'll be right back. Red Red Meat, questa sera su Radio Città del Capo, appunto il primo lavoro è omonimo del 92, segue Jimmy Wine Majestic del 93, insomma, e poi nel 95 Bunny Gets Paid. Diciamo che questi sono i tre lavori principali del gruppo. E poi dopo, successivamente, diventano California, beh, tutta un'altra storia. Red Red Meat comunque vanno avanti con questi lavori, un po' primi lavori sicuramente si sente l'atmosfera grunge, dopodiché passano a un blues un po' più classico, e, perché comunque loro hanno queste, si sente le vibrazioni sporche, no? Febbrili di tutti gli eredici del blues, loro si rifanno un po', insomma, Rolling Stones, Capitan Beefheart e quant'altro, anche Passi Calore volendo. E poi, dopodiché, si passa a composizioni in libertà che sembrano, insomma, canzoni quasi pop, ecco, se vogliamo dirla. E Red Red Meat sono, d'altronde, del Michigan, insomma, di Chicago. Il nome viene addirittura da un'agenzia che puliva, insomma, camion. Ricordiamo che Chicago è una città macello, no? Vabbè, si diceva. Soprattutto era stata, addirittura aveva un'attività di macellazione carni bestiame talmente grande che scoppiavano periodicamente nelle calure estive epidemie di tifo e colera, tant'è che dovettero invertire il corso del fiume per far sì che le acque, ricordo che il lago Michigan è grande più o meno come l'Adriatico, potessero fluire e, come dire, depurare più facilmente le acque di scolo della città. We'll be right back. Sono le 28, scusate, le 21:48 minuti primi, scusate il refuso, siete su Radio Città del Capo 94,7 o 96,25 megacicli in modulazione di frequenza. E questi che state ascoltando sono ancora i Red Meat, li ascolteremo fino alle 10:30 più o meno. Vita strana, percorso strano per loro, un gruppo particolare anche perché nacquero nel 92 in piena esplosione grunge e giravano con pezzi grossi del grunge. Facevano da band di supporto, potevate vederli come band di supporto per, che ne so, i Pearl Jam, gli Alice in Chains. Sì, era possibile. Anche perché uscivano su Sub Pop, etichetta che aveva lanciato tutti quanti di Seattle, nonostante fossero di Chicago. Poi però le cose cambiarono in questo 94, poi nel 95 Cobain se ne andò. Gli ultimi sketch di grunge stavano per uscire o stavano uscendo, come gli Smashing Pumpkins, e loro diventarono via via sempre più strani e sperimentali, un percorso che di solito invece è all'opposto per molte band: partono sperimentali, poi per vendersi, diciamo, per raggiungere più pubblico, per mille motivi diventano un po' più orecchiabili. Non è stato mai il caso dei Red Meat. Thank you. Beh sì, dai, i tempi stavano un po' cambiando in questo 1994-95. Anche in California, io non ho mai capito, forse neanche loro. Non so se fu una scelta calcolata. Tornarono e innovarono il canone blues rock, che appunto, come dicevo qualche decina di minuti fa, dalle parti mie, nell'Emilia più profonda, quella dove viene Ligabue, aveva sempre avuto un ottimo successo grazie a radio indipendenti come K-Rock, che c'è ancora, che hanno sempre trasmesso quel tipo di rock, blues rock americano, americana, si chiama anche così. Beh, i Red Red Meat e i California dopo, che sono ancora in giro, anzi, li ho visti 2 settimane fa, lo stravolsero, divenne qualcosa di allucinato. D'altronde i tempi non cambiati, appunto, eravamo negli anni 90. Tanta acqua era passata sotto i ponti, tanta gente ci aveva già sperimentato e loro non potevano certo esimersi da buttarci dentro tutto quello che avevano ascoltato. Certo, i Rolling Stones, i Faces, ma non solo. We'll be right back. First heard that record when I was in my early 20s. So I was in Chicago and I was working at a record store. Un aspetto importante della tua musica è il rapporto con la tradizione, musicalmente parlando. Cosa trovi attraente in una forma musicale come il blues? È una musica che suona come se fosse sempre esistita. Ne amo l'immaginario. Certa musica sembra faccia parte del tuo DNA. Penso che il nostro lavoro sia di trovare questo in ciò che facciamo, non attraverso l'imitazione, ma cercando dentro noi stessi. Penso che il provenire da un sobborgo di Chicago, da una famiglia della borghesia medio-bassa, che l'essere iperprotetti o ignorati da bambini, il guardare troppa televisione e l'uscire da quel contesto ancora con la voglia di imparare delle cose, ha influenzato ciò che facciamo tanto quanto la musica che ascoltiamo. È una cosa che riguarda l'accettazione della tradizione e delle tue origini e il liberarti da esse senza perdere la familiarità e la bellezza che puoi trovare in quell'estetica. Consideriamo parecchi dei tuoi lavori tra i migliori esempi di rinnovamento del blues nello scorso decennio. Ci sono altri artisti che ti piacciono lungo la storia del rock che hanno effettuato operazioni simili? Nessuno ha effettuato questa operazione meglio dei Rolling Stones negli anni 70-60, o meglio di Bob Dylan. Sono risposte facili, ma credo che loro siano il meglio per quanto riguarda l'inserire il proprio feeling all'interno della musica tradizionale americana. Down. fitful sleep on the edge of head seam. Calm and angry, false and pretty. Peeled an avocado in a basement that's fluid. Watch the clockwork face your eye. This taste is unfamiliar. It's an hour just to watch your jaw move. Try to keep the lid on. Sounds like engines when you're breathing. Shouldn't ponies move? Siete sempre su Radio Città del Capo alle 22:21 minuti primi. Adesso vorrei leggere, insomma, informarvi che sabato dalle 9 alle 13, quindi ci sarà una performance radiofonica dedicata a Piero Santi, appunto su queste frequenze. Si chiamerà Voci Piene di Humus e parteciperanno un po' di amici di Piero, che è un anno, insomma, che è venuto a mancare. Gli amici, insomma, hanno voluto dedicare questa trasmissione sabato mattina, appunto, al compianto Piero. Ci sarà, insomma, un po' di amici, fra cui Monio Vadia, Chiara Guidi, Daniele Sansone, Jonathan Clancy, Emilio Clementi, e, insomma, Roy Menarini, Nicoletta Maldini, tutti gli amici, insomma, di Piero, che volevano partecipare a questa performance, insomma, sabato mattina. Se vi interessa, alle 9 su queste frequenze 94.7, 96.250 per Piero. E noi vi lasciamo con l'ultimo brano dei Red Meat, lo ricordiamo, gruppo di non facile fruizione, forse, non lo so. Spero di non avervi annoiato. Li potete cercare facilmente, se non su Sub Pop si possono ancora trovare online probabilmente. E con questo, buonanotte a tutti, a risentirci giovedì prossimo, sempre su queste frequenze. Ciao, buonanotte. I'ma say this and I'ma end mine. All of y'all that box, if you ain't down for the Africans here in the United States, period.